Good morning, Radio Kabul! Salut! Nieruchimi Respublik Svobodny, Splatiland na veki, Velika Jaros! Milan, Bolcevico! Zostani vole naroda! Milan, non ho capito se ti chiami Alino o Alenin! Sovietski Sayu! Comunista bolscevico Milan Setung Setung Setung Radio Kabul Družbin naroda Vladioždi Stalin Lenin Milan. Vai con l'armata rossa. Piegati al sistema che non siete altro. Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. E con signori, l'uomo più curioso del mondo che oggi è venuto a ritrovarci, Mario Calabresi. Eccoci. Buongiorno. Qua. Buongiorno. Ha delle curiosità bizzarre. No, io vorrei sapere, sì? Mi piacerebbe un sacco intervistare quello che un giorno mandò il messaggio registrato dicendo Milan Bolcevico. Lo trovi, allora, in un manicomio? Li hanno no. Invece io lancio un appello. Sì. Chi ha detto Milan Bolcevico? Si faccia vivo, gli facciamo un'intervista. Secondo me è un genio. Si faccia vivo come? Non so, ci scriva al 349. C'è una radio. Sì, al 349-238-6666. Sai adesso quanti millanteranno e dovremo fare millanteranno. L'esame della voce. No, dovremo fare l'esame della voce per capire se sono... Esatto. Stati loro. No, deve dire come la cadrega di Aldo Giovanni e Giacomo, deve dire la frase Milan Bolcevico e noi controlliamo che sia davvero lui. Esatto. Milan Bolcevico! Eccolo. Ecco. Secondo me siamo tra Bergamo e Brescia. Bergamo e Brescia, sembrava anche in movimento, no? No, c'era era in macchina. Sì. Allora, come avete sentito, è venuto a trovarci ancora Mario Calabresi. Siamo molto contenti, abbiamo tante cose da affrontare insieme alla nostra redazione, che saluto subito, da Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, il nostro alpino in regia. Il nostro alpino, sai che ogni tanto fa dei movimenti di sopracciglia l'alpino. Tu devi capire dai movimenti di sopracciglia che cosa ti vuole dire. Voi ci siete all'800 24 00 24, perché abbiamo tanti argomenti. Oggi, Mario, parleremo anche di cose un po' allargando gli orizzonti, no? Guardandoci un po' fuori dall'ombelico. Ci andremo in Francia a raccontare una storia che sta molto appassionando i francesi, in Italia non tantissimo. Parleremo anche un po' della tua amata America, se vuoi, no? Buttigieg. Vediamo un po' se... Buttigieg. Vai, alpino. Enthusiasm about the future. Buttigieg. Vogliamo farlo sentire subito, il mitico Trevor Noah. Sai che c'è questo pezzo meraviglioso fatto sentire di Trevor Noah, che è un grande comico che tiene un morning show su non so quale rete, insomma, americana. Perché questa storia di Buttigieg e della pronuncia mica è una roba, mica è un problema solo nostro. No, cioè anche in America. Allora Trevor Noah si è lanciato su questo pezzo. A lot of people are asking, how do you pronounce this guy's name? It's pronounced Pete. Okay? It's like peaches, but you just stop. All right? Pete. Senti il cognome. It. Il cognome. Oh, and as for his last name, we are still figuring that one out. Pete Buttigieg. South Bend Mayor Pete Buttigieg. I always say Buttigieg. His name wrong. Buttigieg. Indiana Mayor Pete Buttigieg. Buttigieg. Buttigieg. Mayor Pete Buttigieg. Pete Buttigieg. Buttigieg. Peter Buttigieg, the mayor of Indianapolis. Best way to pronounce it. Senti, lo chiedo a lui, Buttigieg. They just call me Mayor Pete, and that's fine with me. Oh, thank God, Mayor Pete. We'll Mayor take Mayor Pete. Pete. Trevor Noah dice, grazie a Dio. Mayor Pete. Ecco, diciamo che da questo punto di vista Trump funziona meglio. Sì, sì. Ma potrebbe essere un problema, secondo te, paradosso per paradosso, il cognome complicato. No, sai cosa ci dice? Che se troppa gente non sa come si pronuncia, vuol dire che non sa chi sia. Questo è un punto, mentre l'altro è un marchio che passa immediatamente. In effetti fino a poco fa non molti magari lo conoscevano, questo Buttigieg. Adesso però insomma già Pete. Infatti tutta la campagna, Pete, tutti gli adesivi, le spille, certo, tutta la cosa sono Pete e basta. Pete, infatti sarà Pete, sarà President Pete. Il problema è, immaginati per un giornale se venisse eletto, fai quel titolo Buttigieg, due punti e già finita la riga. Pete. Ma no, ma poi sai quanti sbaglieranno, cioè lo dovrà butti e gag, cioè, a vedere come lo scrivono. Vabbè. Ecco, no, per chi non sapesse di chi stiamo parlando, sì, stiamo parlando del candidato democratico, è un sindaco che ha vinto la prima parte, l'inizio delle primarie, che sono i caucus in questo stato che si chiama Iowa. Sì, tra l'altro è un molto giovane, reduce dall'Afghanistan, omosessuale dichiarato, fa campagna con a fianco il marito, cioè c'è tutto. Giovane, ma io, ragazzi, vedo gli altri candidati, cioè Sanders c'ha 79 anni, ma con rispetto, cioè, però. C'è una cosa che è veramente innovativa, che mentre se uno guarda Bernie Sanders, che diciamo è un socialista in America, che è una cosa stranissima, solo in Vermont esistono, lui è una persona che va oltre le tradizionali divisioni del Novecento, cioè per cui omosessuale, però su tante tematiche è conservatore. È uno del Partito Democratico, però è un reduce che ha combattuto valorosamente in Afghanistan, certo, mentre c'è tutta un'area del Partito Democratico ultrapacifista, e quindi da questo punto di vista lui contiene il mix perfetto. Contiene, comunque sia, dimostra, e anche la sua vittoria dimostra, che la politica e la società sono andate oltre le divisioni tradizionali. Allora, qua niente, c'è un evviva Mario Calabresi, bravi, sequestratelo, tenetelo lì, insomma, ti vogliono qui. Ecco, c'è da dire, lancio subito una sfida a Luchetti, perché sono arrivate, io ieri sera ero con Mario Calabresi, tra l'altro, a presentare il suo libro, la mattina dopo, in una bella serata, e quindi non abbiamo visto Sanremo, ma mi sono arrivate varie segnalazioni di chi ha detto, oh, guardate che vi hanno rubato il titolo Uno Nessuno Cento, ma cosa è successo? Niente so! Ma non mi dite queste cose! È successo, cioè ci hanno fatto un plagio alla trasmissione, non dite niente, subito sfida Luchetti, informati, cosa è successo a Sanremo, chi l'avrà visto Sanremo, quattro gatti, non lo so, non è mica come la nostra trasmissione che è la più seguita al mondo. Allora Mario, ti voglio chiedere una cosa ufficialmente sulla questione Oliviero Toscani. Ieri qui a questi microfoni abbiamo rintracciato al volo Egle Possetti, che è la portavoce delle vittime del Ponte Morandi, perché Toscani ha fatto questa intervista in cui sembrava distrutto a Repubblica, ha detto quando io vedo il volto di quella signora Egle Possetti, la sua dignità, io mi vergogno di me stesso, di quello che ho detto. Egle Possetti ci ha regalato un'immagine bellissima quando le ho chiesto che cosa ne pensa, insomma, se accetta le scuse. Le scuse devono sempre essere accettate umanamente, no? Noi dobbiamo accettare le scuse, è chiaro che resta il malessere, un po' come si dice in qualche caso, quando offendi una persona e pianti un chiodo, poi puoi togliere il chiodo, ma il buco resta, no? E un po' questa sensazione ogni tanto di avere persone intorno che non capiscano quanto profondo sia il nostro dolore. Questa immagine lei ha detto una cosa bellissima, e ha detto una cosa bellissima anche nel dire che le scuse si accettano. Quello che è davvero segnalava l'uscita di Toscani è quando la provocazione, a un certo punto la provocazione fine a se stessa. Toscani è stato un intelligente provocatore dei costumi 20 anni fa, 30 certo, anni fa. Oggi spesso ha una provocazione fine a se stessa, e in questo caso però la provocazione conteneva un grande dolore per altri e una mancanza di rispetto, non di pezzi degli. Tante volte lui si è scontrato contro modi di pensare vecchi che metteva in discussione. Ok, qui invece si è scontrato con la vita, il dolore di, delle persone, i morti. E su questo, e su questo secondo superata, me. Dici, la esattamente, la linea è stata superata. E secondo me la risposta sono le scuse da un lato e poi un bel silenzio dall'altro. Bel silenzio. E però il licenziamento, cioè il fatto che i Benetton l'abbiano allontanato, perché molti hanno detto beh, l'hanno allontanato perché chiaramente è andato a toccare anche una questione sulla quale c'è una sensibilità. Beh, però tale se non potevano fare altro. Se lo fossero tenuti come creativo di riferimento, avrebbero come dire, dato un segnale terribile. In questi casi non è che ci sono molte discussioni, certe cose si devono fare, punto. Eccolo qua. Allora, vedi, la sfida Lucchetti è vinta. Emma Marrone, credo. Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini, grandi cantanti, faranno il concerto Una, Nessuna, 100.000. Ma tu guarda, ma porca miseria, il concerto, ma ci hanno rubato. Ma tu sarai ospite d'onore. Ma io non capisco, ma voglio dire, ma ci hanno rubato. Vabbè, dai, passiamo oltre. Allora, cari ascoltatori, la prima storia che vi vogliamo raccontare oggi ci porta in Francia. In Francia c'è un dibattito serrato, noi qui sui giornali ho visto pochissimo, ieri Mattia Feltri l'ho letto in onda, su una ragazza che ha 16 anni, si chiama Mila. Tutto nasce sui social, su Instagram. Questa Mila ha pubblicato dei video, delle storie. Qualcuno l'ha trovata molto carina, l'ha approcciata, ha detto adesso usciamo insieme. La situazione è degenerata. Mila ha iniziato a rispondere dicendo io sono omosessuale, peraltro. Allora sono partiti gli insulti, lesbica, schifosa. Siccome chi la insultava erano forse di origine marocchina, comunque di religione musulmana, questa Mila forse... poi esagerando, insomma, ha detto io odio le religioni, in particolare l'Islam è una religione di puntini puntini, forse potresti dire anche un... no, l'audio non l'abbiamo, l'abbiamo mandato ieri, comunque si è lasciata andare a delle frasi clamorose. Risultato, caro Mario, riceve 200 incitamenti allo stupro al minuto. Questo di media, vive sotto scorta, nessuna scuola le dà più la possibilità di studiare per la paura degli attentati, del terrorismo, di qualche fanatico che possa colpirla. Insomma, la situazione è sfuggita di mano, no? La Francia riapre di nuovo una situazione che si è affrontata tantissimo, si è affrontata dalle vignette di Charlie Hebdo con la strage del 2000, del 2005 ed è un 7 gennaio 2015, scusate, certo. 5 anni fa. No, tu infatti mi dicevi che stavi proprio leggendo un libro. Sì, io stavo leggendo un libro di questo Philippe Lanson, che è uno dei giornalisti culturali di Charlie Hebdo, sopravvissuto all'attentato, sopravvissuto, ferito, un uomo che ha fatto un calvario con 15 operazioni chirurgiche, e questo libro, che si chiama La Traversata, racconta due cose molto forti: il giorno dell'attentato in maniera incredibile, e poi racconta però tutto il clima che c'era prima. Lui racconta che dal momento in cui avevano osato fare questa provocazione di fare le vignette sul profeta, da quel momento un pezzo della società hanno iniziato ad avere questi attacchi, gli venne bruciata la sede precedente, questi attacchi durissimi, e lui dice noi un pezzo importante della società francese disse ah vabbè, ma ve la siete cercata. Che è quello che sta succedendo anche con Milà adesso, e molti dicono ha sbagliato, esatto. Se lui dice merita. Io mi sono reso conto di come era cambiato il clima per il fatto che io stesso, che lavoravo a Charlie Hebdo, non tiravo più fuori Charlie Hebdo sulla strada in metropolitana, ma lo guardavo solo quando ero in casa. Accidenti. Per paura. Ecco, allora, questo libro racconta questo. Qui siamo di nuovo nella stessa situazione. Io le devo dire una cosa: a me non interessa cosa ha detto lei. A me interessa che il parole fatto che forti, lei abbia detto delle parole, possiamo dire troppo forti, io non le avrei dette, va bene, ma il fatto che lei debba, non possa andare a scuola, debba vivere senza scorta, questo non è tollerabile. No, questo in una società come la nostra non è tollerabile, non si può fare, e non si può dire se l'è andata a cercare. Questa cosa qua non si può fare. Purtroppo invece alcuni in Francia pensano proprio così. E allora noi proprio in Francia vogliamo andare e ringraziamo l'ospite, il primo ospite di oggi, perché è colui che è stato... protagonista anche lui a Charlie Hebdo di questa vicenda, è stato per un certo periodo anche direttore di Charlie Hebdo, oggi è caporedattore di questa rivista. Si tratta di Gérard Biard, che salutiamo. Buongiorno Gérard. Buongiorno. Allora, si parla molto in Francia di questo video di questa ragazza francese, Mila. Quanto è forte il dibattito su quello che ha detto questa ragazza? È molto forte, perché il dibattito è sulla questione del diritto di blasfema, no? Abbiamo chiesto a Charlie Hebdo, a un istituto di sondaggio, di fare un'inchiesta, e appare in questa inchiesta che l'esatta metà dei francesi difendono il diritto di blasfema, e il 50% sono esatta metà. Dimostra che c'è una gran confusione tra il blasfema, che il diritto, in Francia non esiste il diritto di blasfema, quindi il fatto di insultare anche con parolacce, anche violamente, le religioni è licito. Quello che è punito dalla legge è l'incitazione all'odio verso i fedeli. Sì. Questa ragazza si rivolge alle religioni. Mm. Ha detto mi spiacciono tutte le religioni. Sì, e poi nello specifico contro l'Islam è stata ancora più dura. Sì, perché è stata attaccata da fedeli musulmani, sì. da gente che si chiamano della religione musulmana. Quindi ha risposta, la risposta che ha fatto questa ragazza era contro queste persone, sì. e contro la loro cosiddetta religione. Il problema è, per me c'è una questione di fondo, che bisogna capire la differenza che c'è tra la fede e la religione. La fede è intima, è qualcosa che riguarda ognuno, no? Mm-hmm. Ognuno ha la sua propria fede. La religione invece è l'organizzazione sociale e politica della fede. È diverso, è la religione politica, e lo è dall'inizio. Quindi quando si attacca una religione si esercita un diritto politico. Anche i fedeli blasfemano, no? È una sfida al potere di Dio, è qualcosa che è necessario in democrazia. La sfida al potere, la critica del potere è indispensabile, no? Io le volevo chiedere una cosa. Cosa pensa quel 50% dei francesi? C'è un 50% dei francesi che la difende il suo diritto anche ad essere blasfema, il suo diritto a dire quello che pensa dell'Islam anche in maniera dura. Poi lei diceva che appunto era stata attaccata violentemente, si difendeva. Sì, è stata attaccata, l'hanno trattata di porca lesbica, risposta, no? Certo. Ecco, risposta. L'altro 50%, lei pensa che sia un 50% che dice ha sbagliato perché è meglio lasciar perdere, non avere problemi, e che pensa che lei sia stata provocatrice, o è un 50% che difende e il fatto che non bisogna attaccare un'altra religione? Penso che c'è un po' dei due, no? Perché oggi il problema è che abbiamo in molti paesi con l'Islam, non con i musulmani, con l'Islam, è che l'Islam è un conquista politica, no? Quindi è una questione politica, per fare questa conquista politica l'Islam usa di medi che fanno paura, perché usa di certi medi violenti, non tutti, però una gran parte dei politici islamisti usano metodi violenti, usano terrorismo, usano minacce, quindi la gente ha paura Però quello che si deve capire è che è lo stesso, è come con la mafia, no? È un racket. Se si cede un racket, non è mai finito. Non se ne vede mai la fine. Ecco, voi di Charlie Hebdo, mi verrebbe da dirle che allora quello che è successo a Charlie Hebdo non ha insegnato niente. Cioè voi avete vissuto, voi avevate avuto prima della strage nella vostra redazione, voi avevate avuto l'attentato, le minacce continue e costanti, l'attentato incendiario che aveva bruciato la vostra sede precedente. Tutto questo era stato fatto perché appunto voi avevate fatto una sfida che era quella delle vignette sul profeta. Allora e c'era un clima nel paese in cui vi si diceva sostanzialmente dovete lasciar perdere, ve la siete cercata. Quindi quello che è accaduto non ha cambiato la percezione di dire nella società francese bisogna difendere fino in fondo quella che è sempre stata uno dei punti fermi della società francese, la libertà di parola e di pensiero. Sì, sì, perché c'è sempre gente che è su questa linea, che si deve lasciare perdere, ma il problema è che se durante la Seconda Guerra Mondiale la resistenza avrebbe detto lo stesso, saremmo nei guai. Capito? È lo stesso, non sto comparando l'Islam con il nazismo, sto comparando una sfida politica a un'ideologia totalitaria. Però Gérard Biard, l'Islam politico è un'ideologia sì. totalitaria. Che ne pensa allora dei politici, mi viene in mente Ségolène Royal, ma anche altri che hanno detto questa ragazza ha esagerato, questa ragazza un po' se l'è andata a cercare, e hanno detto no, non firmo Je suis Mila, che è questo hashtag, come dire, sto dalla sua parte. Sempre la stessa cosa, no? Perché quelli che esagerano sono sempre quelli che difendono la libertà d'espressione, sono sempre quelli che attaccano la religione. I religiosi e anche i religiosi violenti, loro non esagerano mai, però mi sembra che esagerano anche forte, no? Esagerano anche con le pallottole. Accidenti. Ecco, quanto c'è una cosa, c'è questo continui attacchi, lo spiegavamo prima, le centinaia di minacce, tanto che è stata messa sotto protezione, che riceve in continuazione. E c'è un po' chi dice se la poteva evitare, in un fin dei conti se l'è cercata. In questi giorni in Italia, ma anche nel mondo, si è riaperto un dibattito molto giusto e importante sul tema della violenza sulle donne e dello stupro, dicendo che una cosa che bisogna togliere completamente dal dibattito pubblico è l'idea di costruire o offrire giustificazioni agli uomini violenti, agli stupratori, dicendo ma la donna aveva un atteggiamento di un certo tipo, aveva bevuto, si era vestita in un certo modo. Ecco, non le sembra che ci possa essere, o forse troppo, una similitudine tra il fatto di voler giustificare chi ha atteggiamenti violenti, minacciosi, o appunto passa alla violenza dicendo che bisogna fare sostanzialmente un passo indietro? E per me è esattamente lo stesso discorso. Per me è la stessa cosa. Quelli che giustificano lo stupro delle donne perché sono vestite, vanno in strada vestite con le gonne corte, sono gli stessi. Quando Ségolène Royal dice c'era cercata, dice la stessa cosa. In conclusione, Gérard, sono passati 5 anni dall'attentato, dalla tragedia di Charlie Hebdo. Che eredità rimane 5 anni più tardi di quella tragedia? Noi andiamo sempre avanti come vedete, siamo sempre lì, e continuiamo a fare il nostro lavoro e continuiamo a difendere le valori in cui siamo, che crediamo, no? Quindi per noi non è cambiato, diciamo che non è cambiato niente. Tutto quello che è cambiato è che siamo obbligati di lavorare in uffici tenuti segreti e con un sistema di sicurezza che altro che costa caro è anche molto, molto pesante. Immagino. Allora, grazie intanto a Gérard Biard, caporedattore di Charlie Hebdo. Certo che Mario, vedi, anche molti ascoltatori dicono però questa ragazza ha offeso milioni di persone, ha offeso... Avesse detto qualcosa contro la religione cristiana, non ci sarebbe stata tutta questa, come dire, tutto questo rischio intanto di sicurezza personale. Ma io dico, ha offeso milioni di persone e quindi deve vivere nascosta, minacciata e insultata ogni secondo. Quante persone offendono ogni giorno milioni di persone? E poi il dato di fatto, c'è un problemino, ce l'abbiamo effettivamente, perché se avesse offeso anche altre religioni non ci sarebbe stato questo tipo di rischio della sua incolumità. Su questo, come dire, dobbiamo essere tutti abbastanza d'accordo, mi sembra abbastanza evidente. In ogni caso, andiamo un attimo in pubblicità, poi torniamo qui. 800 24 00 24 mi hanno segnalato che le sette cantanti che faranno il concerto Una Nessuna 100.000 porteranno sette partner, sette uomini sul palco. E a questo punto uno Mario, sei tu. No, vabbè, magari due, magari ci sei anche tu. Non lo so. Adesso per questione di diritto di titolo dovremmo essere invitati. Poi rifiuteremo, facciamo il grande gesto. Mandi l'alpino. Mando l'alpino, esatto. Mando l'alpino, vai. Uno, nessuno, 100 Milan. Bella l'iniziativa del concerto delle cantanti Una, nessuna, 100.000. Speriamo non lo facciano in russo però. Sovietico! Calabresi, bolscevico! È lui. Secondo me potrebbe essere lui. Non aveva poi il piglio, mi sembrava. Forse era sottotono oggi, sentiamo un po'. Calabresi, bolscevico. Milan, bolscevico. Calabresi, bolscevico. Adesso abbiamo tirato il RIS di Parma. Però ci siamo quasi. Secondo me, non lo so. Allora, Mario Calabresi sta per partire con un'iniziativa molto molto bella, secondo me. Ce la vuoi spiegare? Grazie. Parte da febbraio, fine febbraio, quindi ormai siamo... Dal 21 febbraio. 21. Ho deciso di fare una newsletter, che è una cosa che ti arriva per mail, sì, con di storie. Una volta alla settimana, uh-huh, perché di più non ci riuscirei. Cioè ogni venerdì fare un luogo, un contenitore di storie. Io oggi a me piace sempre di più l'idea di un giornalismo più lento, in cui si possono cercare le storie, si può ragionare sulla cronaca, anche sulla cronaca del giorno dopo. L'ho fatto, sono partito dall'idea del libro. Uh-huh. La mattina dopo, un libro che ha funzionato perché raccontava delle storie che erano fuori dalla cronaca, sì, attuale, ma raccontavano delle storie più profonde. E in questi mesi, sulla pagina Facebook, ho raccontato storie, ho incominciato ad andare in giro, soprattutto nel giro che ho fatto per presentare il libro in Italia. Ho incontrato molte persone, molte appunto storie che mi stavano a cuore, e allora ho pensato di fare anche un contenitore in cui poi non vanno perse, e allora ho deciso di fare una newsletter che è gratuita, uh-huh, che uscirà tutti i venerdì. Già è rivoluzionario come gesto, gratuita. È gratuita e avrà poi un suo sito, che è quello dove ci si iscrive, mariocalabresi.com o mariocalabresi.it. E questo sito, e saranno poi tutta la raccolta delle storie, degli incontri, dei personaggi. Io mi sono già iscritto, cioè mi ha dato già la mia mail, quindi faccio parte della newsletter in attesa di capire. Perché cosa vuol dire? Non vuol dire fare delle cose laterali strane. Vuol dire che molto spesso la cronaca passa, racconta un fatto e poi il giorno dopo tutte le luci, i microfoni, sì, e tutti vanno, sì, da un'altra parte. Però le storie invece continuano a esserci, e secondo me in Italia, nel paese soprattutto, ma in questo caso sono più focalizzato sull'Italia, ci sono un sacco di storie profonde da raccontare che dicono tantissimo del momento in cui viviamo e che ci raccontano anche un punto di vista diverso, originale. Ci provo, ci diciamo, è un esperimento. Adesso poi ci dice anche come iscriverti. Guarda, io per esempio te ne propongo una, a proposito di storie, siamo inciampati se vuoi in questa storia, che è la storia di Stefano Geller, che torna con noi. Stefano, buongiorno e ciao. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, Stefano buongiorno. È un signore a 42 anni, affetto da distrofia facioscapolo omerale, è una malattia genetica, ci ha spiegato qualche giorno fa, e ha fatto tutto un suo percorso, voleva proprio fare quel viaggio definitivo verso la Svizzera per andare a fare suicidio assistito. Poi ci ha raccontato che ha posticipato, ha utilizzato questo termine, questo momento, perché ha sentito tanto affetto attorno a lui, tanta amicizia. Io gli ho detto: quando vuoi chiamaci, Stefano, e facciamo due chiacchiere. Ed eccoci ancora qua. So che hai un sogno, per esempio, hai un sogno che vuoi materializzare, qual è? Sì, ho un sogno di una vita, che è andare a fare un viaggio a New York, che non ho mai viaggiato in vita mia, però fin da piccolo avevo questo sogno, ecco. Andare a New York. Ricordiamo che tu sei in carrozzina, insomma, poi quali sono, lo diciamo, le tue condizioni fisiche? Già ce le hai spiegate l'altra volta. Sì, dai, io sono in carrozzina e scrivo con il mouse, quindi chi mi scrive abbia un po' di pazienza, perché devo cliccare lettera per lettera su una tastiera virtuale, e ho un respiratore che sto usando anche adesso, è H24, che mi aiuta a respirare. E la tua pagina Facebook, lo ricordiamo, è La vita di Stefano Geller. Ti ha scritto qualcuno dopo l'ultima trasmissione? Si è fatto vivo qualcuno a stare vicino a te? Allora, io devo ringraziarti, perché a pochi secondi dopo che ho messo giù l'intervista con te, la telefonata, avevo già più di 200 richieste di amicizia. Che bello, mi fa piacere. E in questo momento, in questi due giorni, me ne sono arrivate più di 1000. Quindi, speriamo di non averti, come dire, una cosa che intasato la giornata. No, invece so che ti piace scambiare idee. Come facciamo a portarla a New York, Mario? Insomma, bisogna capire prima di tutto la parte, diciamo, pratica. Se puoi volare in aereo, come si può fare? Perché varrebbe davvero la pena darti una mano e provare a farlo. Sì. Sì, io mi sono già informato dal mio medico specialista, cioè il dottor Villanova di Bologna, sulla mia malattia. Mi ha detto che non c'è nessun problema, che facciami tutto per andarci. Allora facci sapere cosa possiamo fare, sì, ti aiutiamo. Io credo che Stefano anche abbia detto, cioè con molta dignità, dire non ho le possibilità economiche di un viaggio del genere, quindi è il mio sogno. Stefano, con molta dignità, ma se qualcuno vuole anche aiutarti, anche so che tu dici anche con un euro, due euro. Sì, infatti, no? Se qualcuno vuole offrirmi una birra virtuale o un succo di frutto virtuale, basta veramente poco, perché queste cose conta tanto, diciamo, la quantità di persone, esatto. Certo. Perché c'è una, come si fa, tu sulla vita di Stefano Geller ci sono gli estremi, anche so che c'è forse un crowdfunding, qualcuno che sta cercando. C'è un crowdfunding che è partito da pochi giorni e già diverse persone mi stanno aiutando, quindi sulla mia pagina c'è il link per questo crowdfunding. Va bene, adesso c'è... devi andare a vedere la baia di New York della Statua della Libertà. Ma sì, ma assolutamente, io vorrei appunto che Stefano riuscisse a coronare questo sogno, va lì, magari ci permettiamo di dirci, facci un po' da inviato, ci racconti, registri le tue impressioni quando arrivi, no? Quando arrivi sì, infatti se c'è qualche sponsor, ben accetto. Va bene, ti aiutiamo a cercarlo. Ti aiutiamo Stefano. Che cosa... Posso fare come no? Un altro appello? Certo. Perché oltre al mio desiderio personale, io ci tengo molto a, data la mia adesso visibilità, fare qualcosa per gli altri. Mm. In particolare per chi ha una disabilità grave e gravissima, come me, e conosco tanti amici. Siccome che a breve... ci saranno le elezioni in Veneto. Vorrei fare un appello al mio presidente, che probabilmente sarà rieletto, mm-hmm. e anche a Matteo Salvini, alla Meloni, a Berlusconi, che dato la legge sull'assistenza è regionale, che facciano in modo di aumentare gli aiuti e questo è giusto, è una questione per la vita indipendente, è una questione anche nazionale, caro Stefano. Esatto. ne abbiamo parlato molto di quanto ci siano persone, milioni di persone con diversi gradi di disabilità, e non ci sono fondi. Sì, ma soprattutto in particolare a chi è da solo, certo. Come dai, che vive solo e quindi non può contare davvero sull'aiuto di un familiare, di un fratello, che vive solo e ha bisogno di assistenza. Sì. H24. Certo. Guarda, e ce ne sono tanti. Qui Stefano, devo dire, ci sono anche molte persone che ci stanno anche scrivendo, anche chi si offre di dire in anonimato di pagarti il biglietto aereo, non lo so. Adesso noi non è che possiamo, come dire, non siamo dei collettori di soldi, non è il nostro lavoro, questo sì, possiamo farlo, dire se pensate che Stefano Geller possa e debba coronare questo sogno di andare a New York, però devi fare l'inviato di Radio 24, questo è il patto. Cioè lo farò sicuramente. Devi registrare delle impressioni, okay, che poi noi mandiamo in onda. Andate su La vita di Stefano Geller su Facebook e niente, insomma, lì ci sono tutti gli elementi per entrare in contatto con lui. C'è anche il mio numero di telefono. Al telefono, abbiamo messo anche sulla nostra pagina della nostra trasmissione il link per il crowdfunding. Insomma, e abbiate pazienza se vi risponde con lentezza, ma deve, insomma, cliccare. Però risponderò a tutti. Ad uno. Vai Stefano, intanto bocca al lupo. Grazie, ci sentiamo quando vuoi, ci sentiamo quando grazie vuoi mille. Ciao Stefano, buon lavoro, grazie. Eccoci qua, Mario, vedi, insomma, sono le storie poi che non hanno molta voce, no? Effettivamente sui giornali sono le storie un po' dimenticate dell'Italia, ce ne sono tante, tu ne hai già in serbo tante. Sì, sì, che ci sono di questo tipo, ma non solo di questo tipo, cioè ci sono anche tante storie che mostrano che cosa cammina, che cosa funziona, certo. Per esempio io ho messo quando uno si scrive gli faccio delle domande, ma gli faccio delle domande non come si fanno di solito le domande, che dice che interessi hai, eccetera, eccetera, perché serve per la pubblicità. No, niente di tutto questo. Però, per esempio, chiedo, siete più interessati al passato o al futuro? È vero, perché io ho risposto al futuro, ma mi hai messo in crisi con questa. Io ho detto futuro, ma in realtà... Tantissimi... Tanto ti dico una cosa, è praticamente 50-50. Sì, ma sai perché ho detto il futuro? Perché ho detto, per non apparire un vecchio trombone, dai, diciamo futuro. Ma in realtà sono interessato anche al passato. A me, in tutti i libri io parlo di passato, però lo uso sempre in una proiezione di dire, certo, che cosa possiamo prendere, cosa possiamo guardare, perché poi dobbiamo guardare avanti. E per esempio c'è un'idea che in Italia i ragazzi siano o sdraiati oppure debbano scappare all'estero. In questo tempo, in questi mesi in cui ho girato l'Italia col libro, ho trovato un sacco di storie di persone giovani, di giovani italiani e italiane che fanno cose, che si inventano spazi, che hanno idee, e questo secondo me dovrebbe, è un'altra di quelle cose che dovrebbero diventare contagiose. Allora, un attimo il traffico e poi siamo ancora con voi. Uno, nessuno, 100 Milan. Buongiorno, sono Beatrice. Quando diciamo che Milà ha offeso milioni di persone, ci stiamo dimenticando che il tutto deriva dal fatto che questi milioni di persone si sono permessi di attaccare lei in quanto omosessuale, l'hanno ricoperta di insulti. Mi pare che perdiamo di vista il punto di partenza della questione. Grazie. Bella, adesso ci sono le persone che scrivono: sono interessato al passato. Sì, ma non è che dovete scriverlo qua al 349-238-6666 se volete iscrivervi. Ti invado alla trasmissione. No, alla newsletter di Mario Calabresi. È bello perché poi la gente non capisce, tutto rimane nell'etere e dice: sono interessato al passato. Allora, se volete te l'ho già detto, io ho una vita che ho fatto per 25 anni giornalista, per 10 anni direttore di giornale, te l'ho già raccontato, e vado al bar, ordino un caffè e uno mi dice: ma io l'ho già sentita, lei è quello che va a aiutare Milan. Aiutare. Non t'avrà detto aiutare, ma sì, ma è così, giusto. Sono l'aiutante di Milan. Ma sì, ma magari. Ho studiato tutta la vita per questo. C'è Gemma che ci chiama dalla provincia di Salerno. Mia madre. Ecco, Gemma, è vero, la mamma non è la mamma di Mario. Gemma, eccoci, eccomi, buongiorno. Sono qui, buongiorno. Volevo intervenire a proposito della vicenda di Benetton e Oliviero Toscani. Io credo che i Benetton facciano benissimo a prendere le distanze da questo personaggio ed eventualmente allontanarlo definitivamente dalla loro vita, perché questi sono personaggi che vanno ridimensionati. Credono di potersi consentire qualsiasi cialtroneria, castroneria, come dir si voglia, perché fanno i provocatori. È un po' come Sgarbi, il quale partecipa alle varie trasmissioni e non c'è volta che non arrivi al turpiloquio o addirittura alla violenza fisica. Secondo lei è bene porre un argine a un certo punto? Perché è gente che va ridimensionata, perché una persona di quell'età che si consente un'espressione di tal fatta senza pensare a quello che sta dicendo non merita tanto spazio, non merita tanta importanza. Ha avuto il suo momento di gloria perché ha fatto delle belle campagne pubblicitarie, basta, a un certo punto rientri. C'è da dire, sì, no, io una cosa che devo dire è una riflessione, grazie Gemma, con Mario Calabresi, che effettivamente molti hanno fatto notare che però negli anni Toscani, negli ultimi anni, di provocazioni ne ha fatte, e sul crocifisso e sulla religione cristiana, a proposito di Mila eccetera, sui veneti ubriachi, credo che abbia fatto anche, subito un processo, cioè adesso paga le conseguenze sulla questione del Ponte Morandi, ma non è la prima volta che, voglio dire, sbrodolava, ecco, ultimamente, no? Beh, quello che io dicevo prima, c'è un amore per la provocazione che spesso ormai trascende, per cui la gente strapalla, e guardiamo sui social, tu vedi persone insospettabili, è vero, che ormai diventano trascendono completamente, e ti chiedi ma cosa gli è successo? Toscani si è fatto prendere da quel gusto. Il problema è che è andato oltre Sgarbi, perché ha detto qualche cosa che era stridente per chiunque. Quando uno fa una provocazione c'è sempre un pezzettino di popolazione che si diverte di quella provocazione. Questa qua invece aveva zero. Quindi nessuno era dalla sua parte. Marco dalla provincia di Lecco, eccoci. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, io prima ho seguito un po' il discorso che faceva il giornalista francese. Sì. Ha detto tante belle cose, però si è dimenticato una delle più importanti. Libertà di pensiero, io sono il primo a pensarla così, libertà di pensiero, però la libertà di pensiero finisce quando c'è mancanza di rispetto, e mi sembra che quel giornale lì di rispetto a volte non sa neanche forse il significato. Sicuramente la satira è corrosiva e ci bisogna mettere un limite, ma perché anche i giornalisti italiani ultimamente, mi perdona, alcuni suoi colleghi, rispetto. Però Marco, il discorso scivoloso è che passare dal dire la satira è corrosiva al dire quindi in qualche modo se lo sono andati a cercare e hanno ucciso delle persone, hanno ucciso 12 persone, cioè, capisce che è il rischio di fare quella scivolata lì, cioè lei non penserà quindi meritavano di essere uccisi, immagino, Marco. Io non voglio entrare in merito se meritava o meno, se sono assoggettato o meno. Io voglio solamente dire che è fondamentale il rispetto, perché il bullismo è anche una forma di mancanza di rispetto, e se un ragazzino vede queste cose, no? Lui si sente quasi autorizzato a fare bullismo. Almeno io la vedo così. Va bene, cioè, Marco, il rispetto non è mai chiaro. Sì. Io posso pensare totalmente diversa da lei, sì. Essere sbagliato io, avere però il rispetto. E no, no, ma non voglio sfumarla. È che mancano 30 secondi. Ma e volevo Mario che chiudesse commentando quello che ha detto Marco. Rispetto, sì, però non vuole entrare nel merito se la siano meritata o no. No, io invece credo che in questo momento il problema sia le conseguenze. Figurati il rispetto. Io ci sto super attento all'utilizzo delle parole e credo che dovremmo restituire tutti alle parole il loro significato e non stravolgerle. Però l'idea anche che a chi non ti piace quello che dici cerchi di tappargli la bocca, o qui si dice no, questo non si può fare, oppure diventa molto complicato continuare a vivere in questa società. Sì. Allora, se volete, com'è, mariocalabresi.it o .com? Cosa preferisci? Sei tutte più due. Sovranista? Così, no, tutte e due, così anche se uno fa in un modo o nell'altro ci arriva sempre. Per iscriversi alla newsletter che partirà il 21 febbraio. Vabbè, tu tanto qua sei sequestrato, hai detto tutte le mattine. No, vabbè. No. Quando vuoi. Quando vuoi, non torna. Dire quando adesso vuoi. Adesso ha messo, ve lo ripeto, ha tolto i bicchierini di plastica, così Greta sì. È contenta. Cioè, ha messo e fa il caffè in un bicchierino di vetro. Di vetro. Per cui io vengo in cambio del... aiutarlo, come dice quel signore all'aeroporto. Buona grazie, giornata a tutti. Grazie Mario, alla prossima, ciao. 1 nessuno 100 Milan. Educated the expensive way. He knows his Clara from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cry. Milan, il peso delle parole dipende da chi le dice e dipende anche da quale luogo vengono dette queste parole. Cioè, un conto è parlare tra quattro mura in casa e un conto è parlare a milioni e milioni di persone. Milan Zarino, Zarino Milan. Vabbè, ragazzi, se volete aiutare Stefano Geller, non scrivete a noi, nel senso al 349-238-6666, a questo sogno, andate sulle pagine Facebook Stefano Geller, la vita di Stefano Geller, e lì c'è il modo, anche noi cercheremo ovviamente di aiutarlo, però ripeto, non siamo qui a poter raccogliere soldi per lui, non è il nostro compito. Vestaglione Manera, dove ti sei cacciato? Vestaglione. Sono nella mia residenza invernale, qui a casa mia. Il tuo castello, insomma, la tua dimora, insomma. Il mio appartamento, sono qui nel mio appartamento. Stamattina avrei voluto anche venire, per la verità. Ah, ho avuto questa tentazione. Sì. Breve. Però poi ho dato un'occhiata all'orologio. Sì. Erano già le 8 passate, ho detto dovrei fare tutto di corsa in 20 minuti, vestirmi, lavarmi, stampare i pezzi. È inutile che prenda tutto così rapidamente, quando posso fare tutto comodamente da casa. Io sono sicuro che anche gli ascoltatori apprezzeranno questo mio modo di essere. Molto. Allora, apprezzate questo suo modo di essere, ditecelo al 349-238-6666. Perché cioè... fare tutto di corsa e di fretta quando si può agire in modo più rilassato e anche alla fine più produttivo. Mm. Cosa ne pensate, cari ascoltatori? Effettivamente l'umore tuo ha un picco incredibile quando sei a casa. Questo dobbiamo anche se ammettere. Non ho potuto farmi il caffè qui stamattina a casa. Vuoi provvedere purtroppo adesso in diretta? No, non ho potuto perché ho tutti i piatti da lavare nel lavello. Non c'è niente di pulito. Se vuoi, se qualcuno... Cioè sei proprio l'emblema dello sfascio, cioè l'uomo che va a dormire lasciando tutti i piatti delle luculliane cene del giorno prima. Ma non solo del giorno prima, dei giorni precedenti, diciamo. Manera, è tutto lì a ti dico, questo è il clima. Fannullone, io in 11 minuti sono sveglio, lavato, vestito, faccio colazione in macchina mentre vado a fare la mia prima mezz'ora di lavoro. Manera lavativo. Bene. Manera il solito lavativo. Para Leonardo. Questo non è male. Para Leonardo. Faccio notare che non sono nemmeno uscito a prendere il caffè perché avrei forse fatto tardi adesso, quindi ho rinunciato anche al caffè perché ho tutti i piatti da lavare, se qualcuno volesse venire qui a darmi una mano. Pelandrun, vestaglione Manera può prestare il suo servizio anche da casa e quindi è il primo che ti dà abbastanza, vai dai sindacati e così, questo è il clima. Prego Leonardo. Allora, se... grazie Peter in regia. Prima che cominci il Festival di Sanremo c'è sempre una bella fetta di persone che dice no, io quest'anno non lo guardo e ogni anno sembra che il festival debba essere un flop, salvo poi scoprire il giorno dopo la prima che gli ascolti sono stati superiori all'anno precedente. In questo caso il festival di Amafiore o di Fiore Deus supera il 50% di share nonostante o grazie anche a tutte le gaffe del conduttore in conferenza stampa prima del festival. Eppure per chi vuole cambiare vita, non guardare Sanremo sarebbe già un piccolo passo per avere un orizzonte diverso. A volte basta cambiare una piccola abitudine per innescare una serie di reazioni a catena. Per esempio, non guardo Sanremo, occupo quel tempo leggendo il libro Diario d'Irlanda di Eric Ball, mi appassiono all'Irlanda, vado a vivere là e poi passo il resto della mia vita in un pub, per esempio. Andare a vivere all'estero rappresenta sempre il principale cambiamento di vita in Thailandia, in Giamaica, a Cuba, in Uruguay, in Svizzera, che non ha il mare ma è tenuta bene, è pulita, ordinata e non ci si sente mai soli perché è piena di case di appuntamenti che possono appunto ovviare al problema. Poi in verità sono pochissimi quelli che riescono veramente a cambiare vita. Io, ad esempio, sono uno che invece favorisce i cambiamenti altrui. Le mie fidanzate, quando ci lasciamo, si sposano subito col primo che incontrano, senza stare nemmeno troppo a sottilizzare. Vuol dire che le ho spinte ad avere una vita diversa e a calzare l'anello, anche se magari quello di un altro. Sono un facilitatore di matrimoni altrui. Però lo pensiamo quasi tutti di cambiare vita, ma lo fanno in pochissimi. Perché? Perché quasi tutti manca il coraggio per fare il passo definitivo. Probabilmente non lo facciamo perché poco alla volta cominciamo ad amare quelle cose che inizialmente detestiamo. Per esempio il bar sotto casa che fa un caffè terribile ma dove c'è il barista col quale scambiamo due chiacchiere, il tappetino dell'ascensore col bordo rialzato che nessuno rimette a posto da anni, il freddo e la foschia invernale che mette i brividi nelle ossa ma che ti fa capire che sta per arrivare Natale. Oppure quel quadro bruttissimo che abbiamo in casa, regalo di una vecchia zia, quadro che non abbiamo mai avuto il coraggio di buttare. Le lunghe code al sabato pomeriggio per andare a fare la spesa, oppure nei magazzini al fai da te per comprare tasselli e mensole da riempire con soprammobili che quando li capovolgi viene giù la neve. La macchina che quando parte dà sempre qualche colpo di tosse e poi si avvia nella coda del mattino. C'è un film, Le ali della libertà, ambientato in carcere, dove uno dei protagonisti, Morgan Freeman, dice che a forza di stare in carcere ci si istituzionalizza e poi quando si viene rilasciati si ha paura di tornare liberi e allora si preferisce rimanere nel luogo che si conosce, anche senza libertà, anche se è un carcere. Anche noi tendiamo a istituzionalizzarci nelle carceri della nostra vita quotidiana. Non ce la facciamo a cambiare, abbiamo paura di doverci abituare a una vita troppo diversa da noi. Eppure basta fare un viaggio una volta ogni tanto per stupirsi di come il mondo fuori dal nostro condominio sia così stupefacente. È vero che anche all'estero cerchiamo i spaghetti, ma poi, non si sa bene per quale motivo, quando torniamo a casa cerchiamo i ristoranti etnici, sarà la nostalgia. C'è un altro film, Carlitos Way, dove il protagonista protagonista Al Pacino decide davvero di cambiare vita, ma viene ucciso un attimo prima di partire per Paradise Island. Forse anche qualcuno di noi dovrebbe avere la forza di partire per Paradise Island prima di essere ucciso dalla routine della vita quotidiana o prima che ci cada in testa quel bruttissimo quadro della vecchia zia. Ma non andrà così, resteremo qui ancora una volta a guardare il Festival di Sanremo, ripromettendoci una volta finito di non farlo mai più, almeno fino al prossimo febbraio, dove tutto ricomincerà inevitabilmente come prima. E infatti, caro Leo, come hai sentito nel giornale radio, la nostra Marta Cagnola inviata a Sanremo, insomma, c'è stato un boom di ascolti. Non c'era questo livello di ascolti nella quarta serata dal 1997. Quindi tutti gli italiani a vedere Sanremo. Questo è dato di fatto, capito? Ho sentito che Benigni non ho visto, ma ho sentito che Benigni ha parlato del Cantico dei Cantici. Io non l'ho visto ieri perché ero a fare serata. Fuori a Gozzovigliare. No, sì, ero con Mario Calabresi. Mi hanno detto che anche tu eri a Gozzovigliare, mi hanno detto. Ti ha visto anche Simone Spezia che gozzovigliavi. Sì. Ma se mi ha visto lui vuol dire che anch'io ho visto lui. Vabbè, d'altronde voi frequentate, diciamo, i potenti. Piero da Roma, Piero, buongiorno. Buongiorno a tutti e complimenti a Manera per le sue tirate in cui mi ritrovo sempre. A volte sembra che mi leggano le testa. Da casa però, tirate da casa. Lei Piero da lavora? Casa, lei Piero casa. Lavora? No, adesso sono pensionato. Ha potuto mai lavorare da casa in vestaglia? No, perché nel mio lavoro era importante il rapporto personale, il colloquio continuo, il ragionare continuo, ecco. E infatti vi voglio parlare di ragionare, perché quello che è successo in Francia mi ha stuzzicato solo non per il fatto in sé francese, sì, ma per una considerazione di carattere generale. A me sembra che una trentina d'anni fa, nel dopoguerra, un momento di crescita, così, di entusiasmo anche in primo tempo, c'era una voglia di ragionare. La gente si stava abituando che non bisognava per forza schierarsi, sì, c'era lo schieramento est-ovest, ma a parte quello c'era un movimento buono di si ragiona sulle cose. E adesso, mi sembra che negli adesso. Ultimi 30 anni invece la gente si deve schierare comunque per qualunque cosa, sì. E non esiste il fatto che si possa ragionare, o hai ragione o hai torto. Mi sembra veramente sì, un sì, sicuramente. Non so se negli ultimi 30 anni, ma sicuramente negli ultimi poi 3 anni o 5 anni ha preso un'accelerata questo aspetto che lei sottolinea, è vero, cioè adesso c'è un'aggressività nei ragionamenti, che non c'è il ragionamento, c'è l'aggressività e basta. Per cui ti devi schierare, se no, infatti io quando, per esempio, Manera è schieratissimo, lo sapete tutti, insomma, da che parte, quindi lui è evidente, non è... Io invece sono più ragiono sulle cose, non è che ho idea di dove stare, da che parte stare, e la gente si disorienta quando non sa schierarti come invece sai schierare Leonardo Manera, cioè lui è fanatico in modo violento proprio. Come faccio io, sì. Tu sei proprio fanatico, ormai quasi disturbante. Aggressivo e fanatico. Aggressivo, sì, sì, e fanatico. Vabbè. Allora, caro Leonardo, tra poco, dopo il traffico, ci collegheremo con la nostra amica di Wuhan, l'amica veterinaria Sara Platto. Allora, sai che c'è stato il primo caso di italiano che è stato un giorno a Wuhan e ha contratto il coronavirus, e quindi c'è preoccupazione. Adesso è allo Spallanzani, è già stato pare trattato. Che non sia in condizioni gravi al momento. No, e ci auguriamo che non peggiorino le condizioni, anche se ovviamente la malattia, come dire, ecco, una cosa che non ci hanno detto è quanto fermata. Dura. Quanto dura questa malattia? Nel caso si guarisca oppure no? Però in media quanto dura? I turisti cinesi, hai visto, insomma, anche loro sono entrati in condizioni, sì, insomma, non gravissime, poi purtroppo si sono peggiorate le condizioni, però speriamo invece che in questo caso non sia così. E quindi sentiremo da Wuhan, anche perché tra l'altro, vabbè, notizia di colore, clamorosa, pare che gli sia arrivato un rifornimento che aveva chiesto con grande ansia, ma ce lo spiega tra poco Sara Platto da Wuhan. Uno, nessuno, 100 Milan. Well, Manera, vai a lavorare! Manera, Lazzarone, vai al lavoro! Ah, Manera, come ti invidio. Ma quando hai la potenza economica alle spalle, tutto si può fare. Bravissimo, fai bene, fai benissimo. Manera è un genio. Manera, maledetto. C'è anche un po' più, c'è anche se non l'hai capito bene. Maledetti! E vabbè, tu hai chiesto un parere e abbiamo fatto un sondaggio veloce. Che vuoi fare? Che vuoi fare? C'è invidia nei miei confronti che posso rimanere a lavorare, sottolineo lavorare da casa. Sì, infatti, ma a parte che c'è chi scrive lavorare, Manera. Con delle faccine, vabbè. Io lavoro dall'età di 17 anni. Sì, ecco, sì, sì. 17 anni. Va bene, signori, eccoci qua. Alle 10:20 minuti la nostra inviata sul posto a Wuhan, la professoressa Sara Platto, veterinaria, docente. Eccoci, Sara, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Non sapevo che adesso fossi diventata la vostra inviata. Sì, che sì, onore. Sì, sì, abbiamo fatto un contratto. Adesso noi l'abbiamo già firmato a 0 euro. Esatto. Poi, con Nutella e caffè, vero? Oh, attenzione, adesso parliamo, poi parliamo più seriamente, ma la vera notizia è che è arrivata la Nutella e il caffè italiano. Esatto, quindi... sono andata al supermercato oggi, ho fatto i rifornimenti, 5 vasetti di Nutella, non uno. No, accidenti, hai capito Manera, qua voglio dire, ci si consola esatto. Così a vasettoni esatto. Di Nutella, vabbè. Com'era la situazione? E mio figlio mi ha detto: ma mamma, magari hai esagerato un attimo. Vabbè. Allora, Sara Platto, adesso la situazione è questa: in Italia avrà sentito che c'è un contagiato di un italiano che è stato lì a Wuhan un giorno, uno di quelli che è rientrato. Hanno trovato ieri purtroppo il coronavirus. Sì, ho sentito, infatti. Quindi questa cosa vi preoccupa un po' di più per chi sta lì oppure no? No, nel senso che non è il primo, tutti quelli che stanno prendendo gli aerei adesso per rimpatriare arrivano, alcuni di loro arrivano malati, non è da sorprendersi, cioè, assolutamente. Il rischio è quello di prendere l'aereo, quindi di entrare in contatto con tante persone in aeroporto. Ma sì, perché in aeroporto non sono pochi, io pensavo che tra l'altro fossero solamente per nazionalità, invece... quando sono partiti i nostri connazionali, una mia amica mi ha mandato la fotografia ed erano tantissimi, non c'erano solo loro, per cui sì, nel senso il rischio ovviamente aumenta e poi nel senso non so quanto abbiano sterilizzato l'aeroporto. Ecco, esatto, questa è una teoria interessante, cioè uno prende l'aereo per rimpatriare, ma pensate cosa vuol dire prendere l'aereo, vuol dire andare in un aeroporto, magari uno va in bagno, tocca, cioè nel senso paradossalmente per mettersi in sicurezza deve affrontare un momento di estrema insicurezza dal punto di vista dei virus. Esatto, ma deve tenere conto anche che ci sono anche altre persone, quindi lei non sa le altre persone dove sono state, cosa hanno fatto, per cui ovviamente il rischio c'è sempre, infatti io sono molto scettica sullo spostarmi proprio per questo motivo, aumenta il rischio, assolutamente. Meglio stare lì, prendere tutte le precauzioni del caso e stare lì. Questo esatto, tra l'altro il governo, non so se avete sentito, ma il governo due giorni fa ha mandato fuori la notizia che a Wuhan vuole assolutamente tutti gli ospedali che siano sterilizzati e vuole tutti i pazienti sospetti essere testati, tutti quelli che sono confermati praticamente che hanno il virus di essere messi nei vari ospedali e quelli critici di essere appunto messi in terapia intensiva, perché ha detto il 14 bisogna cominciare a ripartire in maniera come una partenza lenta. Lo so, partenza lenta. Sì, il governo è anche, ho letto, ci sono anche molte critiche perché è morto questo dottore, il primo che aveva detto guardate che c'è questo virus nuovo, non era stato molto creduto inizialmente, e purtroppo lui è morto. Ma guardi, nel senso, le voci che non sia stato creduto, non lo so questo, perché le dico che le voci che ci fosse in giro un virus c'era già da dicembre. Io mi ricordo che quando a dicembre ancora che è uscita la notizia che c'erano i 40, come si chiamano, i venditori del wet market, sì, che erano stati messi all'ospedale, già c'era il sospetto che qualcosa stava girando. Tra l'altro c'era una sorta di, tra virgolette, influenza, no? che girava, e ancora non avevano identificato che tipo di virus fosse. Però ecco, non è che fosse così, diciamo, silenziato, ecco, la cosa non sì, messa sì. a tacere. No, forse non è stata, sono state prese tutte quelle estreme precauzioni subito, esatto, subito, di isolamento, di individuazione. Sì, ma le posso chiedere una cosa? Cioè, in quali epidemie che abbiamo visto fino ad ora sono state prese delle precauzioni immediate? Immediate, è chiaro. Dove? Nel senso, io non l'ho ancora visto, nemmeno, cioè, nell'epidemia della SARS, nel senso che era la Cina del 2002, per cui era diverso, nemmeno nell'aviare, nemmeno nell'influenza suina, nemmeno della merce, nel senso che tutte queste epidemie sono state comunque diciamo, c'è una prima no, c'è una prima fase in cui uno non si rende neanche conto forse della pericolosità, esatto, della diffusione, infatti, quindi sì, e non conoscono il virus, nel senso che per mettere in cultura un virus e capire di cosa si tratta ci vuole un attimo. Per cui, insomma, è sempre un incognito all'inizio. È un incognito. Leonardo, vabbè, è ancora una città deserta? Ma non è deserta, allora, nel senso che Wuhan non è Zombieland. Allora, quando c'è il sole, oggi piove di nuovo, per cui, nel senso, si vedono qualche macchina che gira, ma la gente sta a casa. Ma quando c'è il sole, lei vede la gente che cammina, ovviamente non sono tanti che passeggiano per strada, ma ci sono, al parco c'è gente che fa jogging, nel senso che corre. Nel senso, allora, oggi sono andata al supermercato, a 2 supermercati, e c'era parecchia gente, cioè io ho dovuto aspettare un'ora in coda, quindi c'è gente con le che comunque esce. Ecco, come vanno con le mascherine? C'è la gente alle mascherine? Sì, non solo con le mascherine, io ho visto gente addirittura con, presente, quegli impermeabili in plastica, sì, trasparente, tutti incappucciati, sono tutti bardatissimi, perché i cinesi soprattutto hanno veramente paura, hanno preso veramente una brutta paura del virus, per cui loro hanno tanta paura. Quindi sono molto più cauti. Sono più cauti. E poi è vero che tradizionalmente il cinese, questo è un paradosso, il cinese, almeno i cinesi che conosco io qui in Italia, non amano molto il contatto fisico, sono molto, no? Non esatto, amano i baci, sì, gli abbracci, non no, sono no, fisici no, come no, no, noi italiani, no? No, assolutamente non lo sono. Sono molto imbarazzati se tu li esatto, abbracci, oppure da italiano, no, gli dai il tipico, i due baci, no? Loro si rigidiscono. Questa cosa, da un punto di vista della diffusione, è un vantaggio, nel senso che dovrebbe allontanare un po' le persone, sono abituate a non toccarsi. Allora, se lei per esempio faccia conto, non so se è mai venuto in Cina, no, quando lei prende la metropolitana alle 6 di sera, cioè le metropolitane pigiati, sono enormi, sì, pigiati è una underestimation, è un eufemismo, cioè lei è presente, è come se fossero dei fiumi, lei non poggia i piedi per terra, viene trasportato letteralmente, talmente sono stipati, per cui non è il fatto del contatto fisico, è il fatto sono che tanti, qui sono tanti, siamo in tanti, quindi tanti. Eh sì, va bene, Sara Platto, sì, tenga dura, adesso noi scherziamo sulla Nutella, eccetera, però in questi momenti serve anche quello, cioè dire una consolazione, un qualcosa che mi tenga sul morale. Siamo rimasti in 4 gatti, sì, e ci tiriamo sul morale a vicenda, per cui siamo ancora molto, molto gioiosi e, diciamo, e spiritosi, no? Ma ovviamente quando sentiamo certe notizie, nel senso, la preoccupazione ci viene, per esempio, a uno degli italiani che vive ad Ankō, che tra l'altro lui poverino vive proprio di fronte al mercato dove è il ground zero, no? Sì. Esatto, quindi lui dalla sua finestra vede anche l'ospedale dove furono messi i primi 40 infatti infetti, e lui mi ha detto oggi: caspita, mi hanno chiuso un supermercato vicino a casa perché è contaminato, quindi non lo stanno disinfettando e lo riapriranno solo quando riaprirà il centro commerciale, certo. Che vuol dire fine di febbraio probabilmente. Dici, come per faccio? Cui, nel senso, esatto. Le preoccupazioni ci sono, ovviamente. Poi dall'altra parte, come le ripeto, ieri, o l'altro ieri, no, ieri è stato, non mi ricordo più il tempo, mi busso alla porta e dico, boh, cos'è? Vado a vedere e c'è la borsetta di plastica e con dentro le verdure fresche. Mm. E poi, nel senso, vedo dietro l'angolo una persona che spia, no, e mi indica la borsina. Praticamente il mio compound, dove viviamo, ha creato un servizio, sì, di distribuzione a tutti gli inquilini di porta verdure porta fresche. Però, gratis, senza toccare, cosa gratis fa appena... Ah, appena arriva bisogna lavarla ovviamente subito. Sì, certo, infatti io l'ho lavata con la mucchina. Ragazzi, cioè, adesso la metropolitana, sì, questo è così. La metropolitana adesso ancora è rimasta aperta o non circola, no, più? No, sono tutte chiuse, non c'è un servizio a disposizione, ma neanche i taxi dal 23 che è tutto bloccato, neanche i taxi. Accidenti. Sono dei taxi che tra l'altro funzionano in certe aree, ma sono gratuiti per chi proprio ha bisogno di utilizzarli per andare all'ospedale o per, insomma, perché non ha la macchina. Certo. Sara Plato, mi raccomando, ci sentiamo nei prossimi giorni, noi siamo va qui, e ovviamente in bocca al lupo e ci faccia sapere, caro Leonardo. Vedi, hai visto che appunto anche in Cina il problema principale è la metropolitana. Io da un da 2-3 anni che me ne lamento, e anche lì abbiamo scoperto che il fattore principale di contagio può essere, sì, la, ma hai sentito che lì Cina non è come te che hai in realtà il tuo agio, cioè lì non riesci a mettere neanche i piedi per terra perché vieni trasportato. Guarda che certe mattine anche nelle città italiane è così, nell'ora di punta, sì, penso che non abbiano il problema dei borseggiatori che abbiamo noi, perché in quella calca vuoi immaginare, no? Io soffrirei tantissimo, sai che soffrirei di claustrofobia, non ce la potrei fare a quei livelli di sardinismo, ho detto di vabbè, dai. Una vita migliore è senza metropolitana. Sì. Va bene, caro Leonardo, qui non vedo Mauro Meazza, vedo che Deborah Rosciani è a Roma, mi saluta, sai che si può vedere, tu non puoi vederlo perché sei a casa, fannullone, pelandrone, mentre Deborah Rosciani mi saluta dagli schermi di Roma, ciao Deborah, c'è Mauro Meazza, è comparso negli studi di Roma, ci saluta, caro Leonardo, vuoi dire qualcosa? È andato a Roma, chissà perché è a Roma. Chissà perché cosa è lì che si trattano. Siamo ostaggi delle Ferrovie dello Stato. Ecco, giusto. Per le ovvie ragioni, non potevano, esatto, prendere il treno. Ma Mauro Meazza invece, Leonardo, avrà degli affari un po', avrà approfittato. È perfino superfluo dirlo, insomma. Dove c'è Mauro c'è Mazzetta. Mauro Mazzetta, vabbè, Mauro Meazzetta. Ah, puoi chiedere, scusa, è venerdì, fai entrare un attimo Mauro Meazza. Debora, vieni qua, Debora, vieni, fai entrare qua. Ecco, vieni qua. C'è tutti, c'è... Aspetta, perché ci deve fare un pronostico, Leonardo. Pronostico calcistico. Deve farci un pronostico. Allora, forza, dai, però, Mauro Meazza, un bello scatto alla Ibrahimovic. Su in studio. Pronostico di Mauro Meazza. Spostato dalla produttiva Padania, è venuto a Roma, si è, esatto, subito rilassato. Attenzione. Domenica sera, derby della Madonina. Inter, no, Milan-Inter. Più che un pronostico, io ti volevo fare tanti auguri. Auguri anche a te, auguri a Leonardo per una splendida domenica sera calcistica. Auguri anche a te. Spero che vi divertiate tantissimo e cogliate le occasioni che meritate. Auguri per lo scudetto. Pronostico di Mauro Meazza, non puoi toglierti le cuffie. Avanti. Il pronostico voglio. Milan, Mauro, Inter. Non è difficile, Mauro. Ma assumiti le tue responsabilità. No, nessun pronostico. Guarda, perché è chiaro che la squadra che parte più indietro in classifica è nettamente favorita. Pronostico, è assolutamente favorita. Io dico 2-0 per l'Inter. 2-0 per l'Inter. Ho già fatto delle scommesse, dillo anche a Leonardo Manera. Va bene. Niente. Io dico 2-1 per l'Inter. Io 2-0 per l'Inter. E Mauro Meazza, niente, dice il super 2-1 per l'Inter. Ecco. Ha detto, no, non l'ha detto, Leonardo. Però non lo dice. No, l'ha detto Leonardo, giusto? No, Leonardo dice 2-1 per l'Inter per Leonardo. Esatto. Mauro, esatto. Ci vuoi dire questo cavolo di pronostico di come finisce domenica? Vogliono un pronostico. Niente, non potresti cortesemente. Mi potete fare la borsa ormai, Deborah, ma posso fare la borsa entro stasera? Esatto. Deborah, ma guarda, è chiaro che vince il Milan a mani basse. Oh, è chiaro, ha fatto il pronostico evidente. Scaramantico. Borsa 1, nessuno, 100 Milan. Don't you tell me that it wasn't meant to be. Call it quits, call it destiny. C'era allora tutto un sistema di voto diverso. Ora sì. Sì, ora c'è un sistema di voto. Tu mi hai anche detto di ricordarlo, ora come sapevi, allora si vota, ora si vota con la giuria del festival, poi si può votare via social, con internet, si può votare anche col telefono, via telefono, e c'è una novità quest'anno anche via citofono. Si può citofonare? No, l'indirizzo, voi venite a Sanremo, Piazza Matteotti 140, citofonate e dite, ci hanno detto che qui c'è gente che canta. E potete votare, poi chi vince vince, insomma, poi. Leo, io non l'ho visto ieri, però questa non è male, eh? Di Benigni, non è male il citofono. Cosa stai facendo? Adesso ho mangiato una noce e sto prendendo un pezzetto di cioccolato. Io non so, cioè io vorrei sottoporre al nostro direttore Umberto Brindani, direttore di oggi. Umberto, ciao, buongiorno. Buongiorno a voi. Tu cosa faresti avendo in redazione un caso umano come Leonardo Manera, che ormai si collega da casa, ormai soprannominato da me Leonardo Vestagliona Manera, Leonardo Lentopede Manera, e Ale, mangia utilizzo le noci. Utilizzo i mezzi della tecnologia, utilizzo la tecnologia. Mangia in onda, cioè non lo so. Mi comporterei come te, trattandolo con estrema circospezione. Io non lo so, cioè, ormai sono in balia degli umori e delle crisi di fame di Manera. Non so. Sta mangiando una noce, vuoi fare dell'altro, Leonardo? Adesso ho preso un pezzetto di tavoletta di cioccolato. Sì. Com'è? Fondente? È fondente con dentro la cremina morbida, però molto vabbè. Gratificante. Ti ringrazio. Però vedo Ale che, come dire, lui accetta di essere sfottuto e preso in giro da te. Insomma, non si offende, non fa come Fiorello con Tiziano Ferro. Ah, è vero. Ragazzi, ma io questa pensavo quando stamattina me l'ha raccontata, non ci credevo. Cioè, Fiorello, secondo i retroscena, siccome Tiziano Ferro ha cantato, era l'una di notte l'altro ieri, e quindi ha detto sta battuta, lancerei il Fiorello state zitto, come dire, pare che Fiorello volesse abbandonare il festival offesissimo. C'è un piccolo retroscena sui quotidiani di oggi, dice che alla fine della serata dell'altra sera Fiorello se n'è andato dicendo non c'è problema, e con questa frase ha terrorizzato tutti. Non c'è problema, come dire, chissà se domani mi presento. Tolgo il disturbo, vuol esatto. dire, non c'è problema, sì, tolgo il disturbo. Non c'è problema, me ne vado se sono di troppo. Ovviamente panico perché il festival si regge esatto. su Fiorello, se ho capito esatto. bene. No? Esatto, beh, insomma, bisogna anche dire che la serata di ieri sera, appunto, l'unica nella quale Fiorello non c'era, era previsto che non ci fosse, si è presa diciamo una giornata di corta, come diciamo noi giornalisti. Beh, anche la serata di ieri sera ha fatto il super record, quindi 50, quasi 55% di share. Sì. Quindi vuol dire che sta funzionando questo festival. Grazie a Fiorello, ma non solo grazie a Fiorello. Sì, ci sono i pedanti che ci scrivono, tipo quelli i precisini fanno bene nella precisione a dire l'hanno visto tutti metà degli italiani, l'hanno visto 9 milioni di italiani. Chiaro, l'hanno visto metà del pubblico televisivo. 52 milioni, no, ho capito, ma 9 milioni, ma caro ascoltatore, mettiti tu davanti allo schermo e attrai 9 milioni di italiani. Poi ti paghiamo, come dire, 9 milioni e 800 mila. Quindi quasi più, quasi 10. Se sei capace tu, caro ascoltatore, di metterti lì in TV. Però è anche vero che non c'è controprogrammazione in qualche modo. Sì, è vero, questo si dice tutti gli anni, ed è vero. Sì, no? Beh, è una vecchia storia, no? Però non c'è controprogrammazione, anche perché la controprogrammazione andrebbe male. Quindi è inutile fare investimenti. Che Mediaset o le altre reti facciano, o le altre reti Rai addirittura facciano investimenti per risultati che sarebbero comunque inferiori alle attese, no? Sì, ma quindi... poi voglio dire, dai, ma Sanremo è Sanremo, ma per una settimana, ma non si può, cioè se uno, come ieri Leonardo Manera aveva una cena con dei potentoni, è andato a cena e va bene, io devo presentare il libro con Calabresi e quindi, però se fossi stato a casa avrei visto Sanremo, cioè ma dai, ma che male c'è, no? Esatto, io stasera non lo guarderò perché sono fuori a cena, ma un po' mi dispiace. Sei di quelli che stanno per annullare, diciamolo, insomma, magari è una cena che c'è gente che no, ti attende, no. Però se tu alle 8 meno un quarto vuoi dire, Umberto, che hai un mal di testa, un po' di, non ti senti, sei spossato, farai così più o no, meno. No, anche perché cioè lo voglio vedere, no? Però poi alla fine sono... non sono tante le cose che mi piacciono, che mi sono piaciute, no? Quindi vorrei poi selezionare fior da fiore. Io per esempio l'altro giorno ti ho detto, tu mi hai detto chi sì. vince, no? Ecco, infatti attenzione, lì. C'è un gran cambiamento, perché cioè, Brindani sì, vuol fare un cambiamento di pronostico, è ancora in tempo, è ancora in tempo. Sì, sì, perché non avevo ancora sentito la canzone di Francesco Gabbani, che sinceramente mi piace molto, piace molto a mio figlio di 10 anni, moltissimo, sì. Quindi c'è, come dire, un gap generazionale notevolissimo. E questo mi fa pensare che effettivamente sia una canzone che può piacere a tanti, insomma. Però dice, quindi Gabbani, che ha già vinto Sanremo, se non sbaglio. Gabbani ha già vinto, quindi bisogna vedere se glielo faranno rivincere, però la canzone è molto bella, insomma. Molto poi mi bello. Piacciono tantissimo i Pinguini Tattici Nucleari, ma sì. non credo che vinceranno, che li portano, come dire, un'energia pazzesca. Non sopporto più. Ma io vorrei più. Chiedere sì, posso dirti? A Brindani. Aspetta che Leo ti vuol fare una domanda, ha mangiato una noce e vuol farti una domanda. Adesso, con la bocca piena. Il cioccolato è andato in circolo, ha energie, ha zuccheri in corpo, vuol farti una domanda. Mi sono ripreso. Vorrei chiedere a Brindani se a suo parere questo festival rappresenta l'Italia, oppure sei una rappresentazione degli estremi dell'Italia in qualche modo, da Diletta Leotta che dice che la bellezza ti capita addosso, ma che poi in realtà è comunque una donna molto bella che non rappresenta, no, tutte le donne italiane, ad altre cose che sono state rappresentate. Elettra Lamborghini. Ecco, questa è l'Italia, quella che, o è tutt'altra cosa? No, è che il problema, Leonardo, è che l'Italia è Rule Gebreal, ma anche Diletta Leotta. Cioè l'Italia non è una cosa, come dire... Ma non sono estremi sola, comunque, no? Rispetto alla normalità? Ma questo non saprei dirti, perché vedo molto, molto più, come posso dire, estremismo nell'Italia dei social che non in quella di Sanremo, che invece è molto controllata e paludata. Considera che in tutte le canzoni, in tutte le parole delle canzoni di quest'anno ci sono solo 3 parolacce, soltanto 3 parolacce. Ho sentito Rita Pavone ha detto una parola stronzo, che... Masini e la terza me la sono persa. Esatto, no, poi c'è uno che dice sono incazzato, ma insomma queste sono le parolacce al massimo che vengono dette a Sanremo. Quindi no, io non ci vedo, piuttosto c'è un fenomeno curioso che devo registrare, cioè il fatto che c'è stata la satira politica per la prima volta, l'hai fatta sentire, no? Sì, Benigni. Sì, anche Fiorello il primo giorno. Fiorello, esatto, contro satira politica contro Salvini. Questo è un festival nazional popolare che sta facendo scoprire un'Italia nazional popolare che non coincide con l'Italia populista che ci siamo raccontati fino a ieri. Attenzione al messaggio politico di Brindani. Esatto, un segnale non positivo per Matteo Salvini. Va bene, Umberto, in conclusione, vuoi cambiare il pronostico anche per il derby? No. No, perché visto quello lo mantengo 2-1 per l'Inter. Vabbè, ragazzi, questo 2-1 è il risultato più gettonato. Anche te, Manera, 2-1 per l'Inter. Io ho detto almeno 2-0, dai. A 2-0 al 18esimo minuto del primo tempo, già 2-0 è finita. Basta, andiamo a vedere la replica di Sanremo. Ciao Umberto, ci vediamo. Sentiamo presto, direttore di Oggi. Andiamo al traffico. Marella va in mezzo, Lukaku! Lukaku! Grazie. Grazie. 1, nessuno, 100 Milan. You know I love that violence that you got when the car wheel blows down. News of the marriage of the socialites, money to another one's land. And I put one where refuse to stand. Manera fa benissimo. non consuma benzina, non inquina, tiene lo sporco in casa sua, è un genio assoluto. Ciao. Bene, bene. Bene, chiudiamo così questa diatriba perché è il momento di dare il benvenuto al clown Neronello che è tornato ad allietare i nostri venerdì. Eccoci qua. Buongiorno a tutti, buongiorno. Sono il clown Neronello, l'amico dei bambini. Yup! Buongiorno Alessandro Milan. Buongiorno. Lei sa che da poco faccio il clown, prima ero un imprenditore. Nel settore delle pompe funebri facevamo bare personalizzate, per esempio sulla bara di un medico ecografista abbiamo scritto «Sapeva guardarti dentro». Ovviamente non sempre i parenti apprezzavano i nostri motti di spirito e quindi ho dovuto chiudere la mia azienda e mi sono reinventato clown per bambini, clown Neronello, l'amico dei bambini. Sentite oggi come sono spumeggiante. Chissà perché oggi la troviamo più spumeggiante del solito, quando viene a trovarci in studio. Vabbè. Esco da casa già truccato da clown e appena arrivo nella casa dove ho la festa faccio subito un indovinello per far divertire i bimbi. Per esempio, bambini, cosa dice una zebra tossica? Dice, ehi ragazzi, ci facciamo un altro paio di strisce? Cose molto adatte ai bambini. Molto, proprio le loro sono. Ovviamente i bambini non gradiscono, uno di loro ha cercato di aggredirmi e allora io ho detto bambino, vuoi fare una cosa davvero divertente? Immergiti nella vasca da bagno con in mano il tostapane, poi attacca la presa e fatti un toast. Lei è un assassino, Stava per succedere l'irreparabile quando è arrivata la madre del festeggiato e mi ha detto Neronello, lascia stare i bambini, puoi tostare me. No. Ci siamo appartati, ma ormai stava scadendo il mio tempo da contratto, non posso rimanere più di un'ora nelle case. I bambini mi reclamavano, così sono sceso e ho raccontato una delle mie favole, le favole del clown Neronello, l'amico dei bambini. C'era una volta un cavaliere molto valoroso che guidava l'esercito del re. Un giorno, alla fine di una lunga battaglia, il cavaliere rimase ferito e così il re dovette improvvisamente trovare un sostituto. Convocò il consiglio di corte e disse all'araldo di annunciare il suo proclama. Tra 3 giorni tutti i cavalieri del regno sono invitati al cospetto del re. Sua maestà nominerà paladino colui che si mostrerà più nobile e leale. Venne il fatidico giorno e alla corte c'era un gran fermento. Il re, seduto sul suo trono, si preparava a fare la sua scelta. Il primo cavaliere sguainò la spada con tale destrezza che tutti rimasero a bocca aperta, ma il re, annoiato, disse «Rinchiudetelo nella gabbia dei leoni e fate entrare il prossimo». Il secondo cavaliere entrò galoppando in sella al suo destriero e fece un salto che incantò grandi e piccini, ma il re, sbadigliando, disse «Rinchiudetelo nella gabbia dei leoni e fate entrare il prossimo». A questo punto il ciambellano di corte, che si chiamava Ortodonzio, per via della sua dentatura complessa, disse al re «Fire, chi sarebbe mio cugino?» Parlava così a causa del suo problema dentale e tirò fuori una pergamena con scritto il curriculum del cugino. Il re rimase molto colpito da quel che lesse. C'era scritto «Parlo 8 lingue, ballo la breakdance, faccio volontariato e una grande esperienza sul campo». E così il cugino di Ortodonzio, anche se non aveva mai tenuto in mano un'arma in vita sua, venne scelto per guidare l'esercito. Bambini, qual è la morale della favola? Qual è la morale? Se studiate, vi preparate, lavorate sodo, finirete rinchiusi nella gabbia dei leoni. Se invece avete un cugino ben inserito che vi presenta le persone giuste e mentite spudoratamente sul vostro curriculum, troverete delle grandi opportunità. Quindi amicizie e falsità sono la chiave del successo. Mamma questa mia. È la morale della favola, chissà, cari bimbi, chissà seguite che le morale pensa, sì, che sai che ne pensa il ciambellano, Ortodonzio. Cosa avrebbe detto di questa? Avrebbe detto questo è il modo migliore per avere successo. Va bene, va seguite bene i consigli del clown Neronello e avrete successo nella vita, cari bambini. Studiare non serve no, a niente. No, ma non niente è vero, ma non è vero. Lei forse ne è la dimostrazione. Non serve a niente. Non è vero, non sento è questo. Che ogni tanto anche lei, caro Milan, intervista Forchielli dalla Cina, dice studiare la tecnologia. Sì, ha ragione. No, è sbagliato, ma non cosa, serve a nulla. Ma cosa sta dicendo, scusi? Truccare i curriculum. Amicizie, ecco, essere paraculi è l'unico modo per avere successo nella vita, altro che studiare. Tanto la tecnologia cambia di giorno in giorno, non si può rimanere aggiornati. Invece paraculi meglio si può corrompere, essere sempre, pagare tangenti, essere paraculi. No, ma la smetta, Neronello. Io sorrido, ma sono messaggi che sviano i nostri ragazzi. Non va bene, va bene? Siamo alla fine di questa settimana, sì, caro sì, Milan. Sì. Come passerà lei questo fine settimana? Ma c'è il festival di Sanremo. Come al suo solito, no, tra domani alcolici, bibite. No, ho una cena. Bibite molto ad alta gradazione alcolica. Una cena di amici a casa, insomma. Sa se invece Manera qualche spettacolo questo venerdì, cioè sabato sera, so sabato che andrà a Modena. A Modena, sabato a Modena. Ah, sabato è a Modena, Manera. Domani, sì, domani è a Modena. Sai in che teatro, caro Neronello? È in un palasport insieme ad altri comici, nel palasport di Modena. Va bene, domani. Ci vediamo lunedì, grazie, ciao a tutti. E io che lo sfanculo e poi mi aggiungo che è venerdì. Marella va in mezzo, Lukaku!